avanti. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Ebbe Attuanio. Ora, recco, recco. Attenzione, 10, c'è qualcuno? Attenzione alla frequenza, brecco, brecco, brecco. Attenzione, binario 10, copiate Antonio che fa chiamata a K. Brecco, brecco, brecco. Detto Antonio che assume questa piccola modulazione, cambio. Guarda che stai saturando. Oh fra, abbassa un po' i watt con l'apparecchio. Vabbè, ma perché altro dici? Abbassa i watt. Così bene qua. E abbassa. Ecco, hai detto di abbassarlo. Così. Così è perfetto. Dove va? E satura. E a me come vi senti a massima potenza? Una bomba, anzi, una bomba. Non so che satura. Perché devi dare poco ingresso. Sì, ti ascolto bene a tu, giusto? Tutto a fondo scala. Ah, ma devo far cagire l'antenna che rimane a più vuoto e quindi... Addirittura a fondo scala? Sì, tu sì. In questo apparecchio sì. Questa è l'apparizione. Vabbè, la giardina. Tu sei accionato lo smitter, no? Oioioi. Faccio uscire il basso, faccio uscire tutti qua. Quelli che va bene. Va bene, sì. La mazza chi te ne varia. Hola. Hola. Come 40 sì, ma è il massimo di quello lì. No, più di 9,40 non arriva. Questo è l'altro. Su quell'altro arrivi 9, quasi 9,50 sul capo. È freddo, va. Pure questo. non lo metto, va. Lascio, no, qui. La bolletta arrivi già in casa. Giù, dalle aria. Vabbè, Claudio Spurge. Buonasera, solo per un saluto, divertitevela, ciao. Capo, dimmi. Ami un po' caretto. Di male che va freddo in occhio. Scaldate, vi saluto, ciao. Ciao Cla, e allora, tutto a posto? Meglio di così si muore, dai, vi sto ascoltando. Già, ci sentiamo, ciao. Ciao Cla, saluta il QRA da parte mia. Ciao ragazzi. Progressi, bel segnale. Matti. Tu? Io non gli ho fatto nulla ancora. Cavolo. Occhio e croce, i nobbi sei quasi 9,20. Ehi, ando da sulla tenna, vai a vedere. Ci divertiamo. Qua è 9,25, Claudio. E sa tu? Quanto è nata 2 metri? Cioè quando la solleva qua arriva 9,40. Un bel segnale, anche una bella radio. E anni zoccami, anda per me. Va bene, sì. Anche la radio è bella forte, di lusso, la grande. Va bene. Galaxy, Eterna più 3, K. Ciao, devo cenare. Ciao, grazie, sentiamo. Altro chiudo, vado a mangiare qualcosa, dai. E coincide a dopo, se ci sei, se no a domani. Ciao Claudio, ciao le tue amici che sono in ascolto, ciao Antonio. Te la carica un po' tutta e ce la riascolta più tardi, magari. Oppure a domani. Ciao. Ciao. Attento, maniaca zoffa. Ya. Hola. avanti, chi è? Hola. Ciao a tutti, bene. Ui, buonasera. Ho mandato solo portante senza microfono, infatti mi ha chiamato, ha detto chi è? Ho fatto un giro qua sui canali, c'è qualcuno in banda laterale, da tutte le parti, ma è tutto un po' di confusione. È un bel brutto, beh. Ciao Santiago 9, è tutto il disturbo. Guardate che lo passi io, poi. Li appassi tu. Capa. Da poco di. Dopo tempo da brutto qui. Se non quella antenna di Chicciani. Ma così che è quell'antenna che c'è. C'è presente la pasticceria Secchi in Piazza Castello, a fianco al grattacielo. Sulla sinistra della pasticceria c'è una. Forse una mantova vecchia, non so cosa sia. No, non è una mantova vecchia, è una di antenne. Lo sai che non ci ho mai capito di chi sia. Io ho alzato lo sguardo, un po' di volte la vedevo però non riuscivo a ricordarmi dove era. Poi ho detto, l'ho memorizzata e poi ci avrei domandato a Antonio che lui di quelle zone magari conosce qualcuno. No, non so, ma vabbè. Così ce n'è una vicino in coso, l'hai vista? In via Fermi, dietro dove c'è quella rotatoria dietro i militari, lì si alza la testa, c'è un coso, una mantova. Quella è di uno che non c'è più. C'è la ragazza in chi l'antenna. Se vai in giro per Sassa, non c'è neanche preso di antenne, non anche a Porto Torre se ne ho visto qualcuna in qualche paese, ma nella zona di Sassa, della Terò c'è in chi più tubieno. Non so, c'è quella del chilometro, c'è. Chi sa ancora 30 anni, ancora come il primo giorno che l'ha piazzata. È montata bene. Poi c'era quella sino a qualche anno fa, c'era l'antenna di Torrico di Acoso, Mansell, Mario Mansell. Sì, è stata in Pisa era. Era proprio per andare al Ponticello, per andare alla Bretellina, era alzavi lo sguardo di lì dove c'è la chiesa, cos'è? La chiesa lì come si chiama? Sì, non so. Purtroppo lì a Capovanno, veramente dirata. Non sai quanto usciva forte da quella posizione Mario Mansell, era una cosa allucinante. Di tutti quanti, a parte Claudio, vabbè, quelli che sono in alto, lui era quello che andava più forte di tutti. Non credo io. No, ma considerando, per dire, c'è gente del monte, più in alto di lui, lui arrivava a tutti, dove arrivava lui poca gente arrivava. Già lo so, chi vuole entrare avanti? Sono uno sopra l'altro, quel che detto sono 9, e la propagazione, ma sono uno sopra più l'altro, sopra l'altro non se ne comprende nulla. A volte pure a me 9, o cambia il segnale. La mia antenna lo so dove la vedi. Non ho capito, scusa? La mia antenna lo so dove la vedi. No, non ho capito esattamente, io pensavo che tu fossi di fronte alla moto, mia motorizzazione, alla stazione. No. Largo Monache, lo sai dove? Sì, lo so. Ah, quindi sei da quella parte, tu non sei verso il suo vicolo. Ma secondo te? Io ero convinto che di lì, è un profeta di lì. Lui è alla stazione. Perché lui mi aveva fatto vedere delle immagini, un video si vedeva la stazione, io pensavo eravate vicini lì. Noi siamo vicini. Quindi la piazza con la Mariana si vede la Duglia. La mia, sai da dove si vede? Ma è presente di quella palestra? No, non è che sia pratico di quelle zone, ma se mi dici dove c'è il coso Cappuccino, e ho capito dov'è quell'allargamento che c'è di lì, diciamo, scendendo da piazza con la Mariana, scendendo verso giù. Vai, piazza con la Mariana, giri. C'è una palestra, c'è quello che vende il registratore di cassa. No, l'ho capito, però non ci ho mai fatto caso, la te si vede la tua. Ora si vede via. Ma Paolo quanto è alto? Non è altissima, ma già si vede, a voglia. È già la saia. Sì, ma dico, vedi solo l'antenna o vedi anche il palo che la sostiene? C'è anche il palo, c'è. Cioè. Sì, vediamo un po', se nel frattempo c'è qualcuno che vuole entrare. Capa. Tu fai la Kiwi, non è ancora discesa che c'è, capito? C'è quello strago, dove per un circolo vicino, c'è quello strago dove c'è quel coso, dove ci sono i cosi, le scalinate lì, tutti gli iri, c'è quel coso dove è pieno di erba qua. Tutti i giri la vedi? Sì, conosco bene, perché mio cognato abita vicino, mio cognato lo sa dove abita, per cui ho detto Mario Francesco, i portici sotto, di fronte, dove c'era l'ex Upin, sopra di lì abita. Avanti! Kappa, che sei lupo grigio? Sei bassissimo lupo grigio, non penso che Roberto ti tiri fuori. Poi con questo bailame che c'è. Scusate, come sono notato, chi è entrato altro che è venuta mia figlia? Kappa, lupo grigio, sei basso sei qua, Sei Santiago 7, sei. Radio è bassa. Basso, non ti tiro più fuori. Il lupo grigio era roba. Già ho capito, ma ho sentito a tratti perché lui aveva 8 qua, però Santiago delle propagazioni è 9. Lo schiaccia, non so se mi ascolti il lupo grigio a me, che lo conferma, ma ti ripeto, sei in mezzo alle stazioni di coso, di propagazione. Di nuovo a te il mic. Capa, sono un ricevi. Non mi ascolta. Santiago 7. Cosa ha detto? Perché lo sento a mezzo a correre, è un bel basso di radio pure. Ha detto che avessero sentivi, ma lui già ti sente. Ah, tu a Roberto lo senti, però Roberto non senti a te anche perché c'è molta gente da fuori, capito? Cappa, dai! Ti saluto lupo grigio, dai, avanti Roberto. Ciao lupo grigio, non ho capito dove stai modulando perché il segnale è 8 ma è tutto abbassa abbassa la radio, non riesco a capire quello che dici. Qua la cappuccini. Ma io l'ho ascoltato, forse è dentro casa, non lo so. Perché lui aveva la 9 qua, da me, probabilmente è in condizione un po' critica. A me è più vicino. Comunque io ho ben sentito, anzi, non ben sentito, ma sentito però, ci saranno momenti migliori. Ok, rinnovate la tua. Roba, stavo dicendo che la mia antenna si vede da lì. Se capito, dimmi, stasera sono passato, perché vado sempre a... C'è un amico mio che dà una mano, dire, da quella pizzeria che c'è, Marcellino, la conosci? Allora, lo conosci a Marcellino. E quello senza mano, lo conosci? Non mi ricordo adesso. E sta sempre di lì, diciamo, qualche aiutino, gli dà a prendere le cose. Un amico mio, già sicuramente già lo conosci, perché è un bravo tecnico, quello lì, elettricista, adesso tecnico, siamo amici d'infanzia, qualche lavoretto mi sta dando una mano per il camper a fare l'impianto elettrico, deve fare delle modifiche, delle ultime cose. Ho capito, adesso lo conosce a Marcellino, io lo conosco già. No, io non lo conosco così, lo conosco tramite lui, non lo sapevo, ma sono buone le pizze, le fa buone? Molto buone. Ma cos'è, a legna, al forno? Ho visto che c'è il tubo fuori via Rosello, però non ho capito se è a legna o elettrico. A elettrico, ma guarda quanto travaglia in sabizzeria. Come? Che lavora parecchio. C'ha una buona posizione, anche se di lì c'è Bruno, cacchio, Bruno non è bucciare gioca. Bruno era una borsa. Che la pasta è sempre buona quella di Bruno, dai. Io ci sono andato un anno e mezzo fa, dai. Ti posso dire, è veramente buona. È uno dei pizzaioli storici, lui, Franco e Belluni, Belluni è morto. Erano i tre pizzaioli che hanno portato le pizze a Sassari dal Gallo d'Oro, i primi proprio bravi bravi. Poi magari mi dirai che non si sta più appentando perché è ormai vecchio, magari le fa fare un altro l'infatti. E il figlio lo conosce a Massimo? Lo conosco già, conosco tutti. Belluni, a conosci a Belluni? Io? A Marco lo conosci? A Belluni, Belluni è musso però. Ma che di Belluni però? Come c'è una pizzeria per te, tu sei troppo giovane, forse non l'hai conosciuto, è molto tanti anni fa tu. Ma i figliori vi so. Non so adesso cosa sta facendo, c'aveva una figlia e più c'era Marco e il nipote che gli dava una mano e la moglie. Marco sto parlando. Ma Marco perché cosa sta facendo? Sono anni che non lo vedo, fuori il gabbo il suo vizzino. Ah, è in gamba, ma fuori il gabbo cosa vuol dire? È finito male? No, non va a puntare al logo, no. Non ho capito, scusa. Che non va a puntare al logo, è bravissimo, Però non, bravo cameriere, bravo tutto. Però cavolo, è bravo pizzaiolo pure era. Ma quando lavoravo da Belluni, noi siamo diventati amici perché andavamo sempre da lui con tutti gli amici, fidanzate, eccetera, eccetera. Chi mandava avanti tutto il lavoro era lui, cioè, con i clienti ci sapevamo ben fare, nel senso era un bel gentile, scherzoso, non eri che sia antipatici. Io, molte pizzerie, non ci vuole anche Vesore, il cameriere antipatico, ma lui era troppo in gamba. Poi c'era la moglie di Belluni e dava una mano, però cacchio, le pizze di Belluni, numero uno, non ce n'era per nessuno. Lo so già. Marco già lo conosci, Marco l'altro loro fratello. Ma Marco di ma chi? Fratello di Bellone? Ah no, deve essere un figliolo, deve essere. Perché anche il figlio di Bellone Marco si chiama, questo non me lo ricordo, era piccolino quando andavo io. Ah, non me lo ricordo, io conoscevo Marco, conoscevo. Quello che ha sposato con una professoressa, cos'è? Allora, quel Marco che dico io, il cameriere, adesso ci avrà non meno di 55 anni, più o meno l'età mia. Ehi! Poi mi aveva detto che aveva lavorato in un'altra pizzeria, può essere la pizzicotta Sant'Orsola. Non lo so, però sono anni che io non lo vedo. Però le pizze di Belluni all'epoca, io sto parlando 30 anni fa, era, non viene da nessuno, proprio numero uno era. Poi le faceva buone anche Franco, Bruno, però Belluni era il tipo che, per dire, se non aveva la salsiccia, non la metteva, se non aveva quel tipo di salsiccia, non ti dava la pizza con salsiccia, cioè no, no, non l'ho presa oggi la salsiccia perché non era come la volevo io. Poi dove lo faceva le melanzane al forno, i funghi, tutta roba fatta da lui, non era roba preparata, non esistevano cose, ma quando ti mangiavi una pizza da lui era una cosa allucinante. Oppure quando faceva le monzette arrosto, mamma mia. Allora venivano i bravi, Adesso è tutto, gente, è tutta roba conservata, preparata, preconfezionata. Pizzaioli proprio davvero ce ne pochi. Ti danno quei bidoni, quei fusti di funghi e te ne buono in mezzo, neanche condimento, ci mettono, ce lo buttano salsiccia, mettono quello che trovano, non parliamo del prosciutto, cacchio. Io ne ho tanti amici pizzaioli, amici e amici proprio. Però me lo dicono anche loro, purtroppo devi fare il prezzo, poi soprattutto quelli da sport. Deve abbassare la qualità. E lo so già. A chi quando verrà Gocco, no, che no è dello figliolo, romano. Le pizze erano tutte quante un'altra, tutto un altro sapore avevano. Le pizze tartaglio stai dicendo. Eia, quando verrà Edo però, proprio il padre, era stata un'altra storia. Non lo so, poi è perché Oggiano, non hai conosciuto Oggiano, mi ha catalucchino. Lo stesso che lo conoscia. Quando ha iniziato lui ha iniziato nel 73, eravamo bambini, andavamo, perché mia nonna abitava a pochi metri da lui. Lui era panettiere, era collega di mio zio panettiere, ma c'aveva un'esperienza. Poi piano piano, adesso ci sono le file, il genero, eccetera, eccetera. Sono sempre buone, io ci vado spessissimo, le pizze tartaglio di loro sono sempre, però è diversa da prima, da come era 20 anni, no, diciamo 30 anni fa. Lo so, Guglia. Fernando li fa. Io conosco tanti anni, pure Edo di Rattidottimi. Io conosco benissimo a lui, la moglie Loredana, i figli, Roberta, eccetera, Tiziana. Ci conosciamo da ragazzi, da quando sono bambini. Tutti in Chibiloro abitavano di lì, via Catalucchino, mia nonna abitava lì. Daniele, allora conosce anche Daniele, il fratello di Coso, il cognato di Ferdinando. Li conosco già. Li conosco perché conosco pure un figliolo, cioè uno di Oggiano, Giampiero, l'altro, li conosco perché li servivo io pure. Sì, Giampiero adesso non so che fine abbia fatto, lo sai, perché Daniele si è piazzato a Carbonati, nella piazzetta, l'hai visto, si è fatto la cosa insieme alla compagna Valentina, e l'ho vista proprio stasera quando sono andato a ordinare una torta, c'era lì, quella da Carmelo Giano, quella che vende il pane di lì, via Carbonati, però Giampiero se mi dici che fine ha fatto, lo sai che non lo so. Ma io stavo lavorando agli punti con un fratello. Ma mi pare si sono ubriati, tutti e due, si sono separati, lui era lì Punti, però non l'ho più visto da tanto, non so se ce l'abbia ancora la pizzeria. Ero per la via Romonti, travagliava un beta, poi non so cosa è successo. E infatti quella mia ragazza, infatti gli ho detto, ma come cacchio hai fatto a mollare una pizzeria? Ma non sai quante volte si andava quando era ancora viva mia mamma, andava apposta a prendere le pizzette da lì, e la fine. Ma non sai quanti ne pigliava? Poi lavorava che è una cosa esagerata, poi ha chiuso, non ho capito perché. Vale un capo, vale. A Chittore da Zarraera che travagliava a Forse. Ma già si è posto bene a Forse, Ma Torre via Succi, stai dicendo? In via Pascoli. Ho capito, sì. E perché tu l'hai conosciuto a te, via Grazia Verda, quella pizzeria dove c'è, cosa cacchio, la Sisa, cos'è quello lì, più avanti di quello che faceva i polli arrotto oppure, come si chiama quella pizzeria? Conosco via. Da Goso, da apotica. Quello all'epoca, quando ero ragazzino, cazzo, faceva lui e Cocco le migliori pizzette, erano veramente buone. E poi c'era mia figlia che andava sempre da Gozo, da Nannis, quello di Maghinotti, ci sono andati. Una cosa già pigliata. È un capo di... non te lo voglio dire. Lo sai dove sono buono? Io vado sempre di lì, il 90% delle volte vado lì, qualche volta vado tantissime volte da Oggiano, però dove fa le pizze buone, ma proprio buone, di qualità e pulito, e la sfiga è via d'Emilia, angolo via Montegrappa, non so se sono andato da Ettore, siamo amici, ma sono troppo buoni. La faina deve assaggiare come ti faccio la faina, è quello, pochi la fanno, solo quelli suri ce la fanno meglio di lui. Come sai, non lo conosce sul capo del gatto. No, non lo servivo io. Ma Ettore? Tutti e due quanti sono. Tutti e due fratelli, per carità. Sì, di quello vi devo dare atto, sono veramente bravi. E cosa? Ah, di carattere, per carità. Cos'è, bruciature? No. Non bruciature, ma... a capirli. Si sono fatti ma due cazzate. Fa un guaccio che cioè sempre risulta stronzate con le bombole. Le bombole devono stare attenti, magari c'è quello da 10 centesimo di meno. E io lo so per quanti anni ho comprato la bombola, sempre la ghisto, alla fine ma non ti faccio il nome, già lo sai. Ma sai quanto ci ha fregato questo qua, cazzo. Era una cosa, con la scusa che te la portava, ma a un prezzo allucinante, a pagarla, cacchio, se chi tu la vendi 20 e tu la vendi a 25 in tutto, la stessa bombola portata. E pochi non vado a farsa di queste cose. Quando capita già te lo dico, vabbè, ma già è finito male adesso. No, adesso quando servono, quando ando sempre da voi. Da cosa andavo sempre via, come si chiama? Aiutami. Dove andate prima, in via Armando Diaz. Poi adesso che siete di lì, sto venendo da voi. Cacco, ma hai preso almeno ragione. Ma quello cacco ti caricava amici e che ci conoscevamo da tanti anni, uno della zona del monte senza far nome. Ma Giovanni. Già mai compreso, non facciamo nome, ma già mi ha capito. Vabbè, lasciamo perdere. Perché cacchio, già stato una vita sempre prendete i bagagli, una volta sono andate, non era chiuso lui, non ne aveva, per scuso, per coso sono dovuto andare da un altro. Quando mi ha fatto il prezzo, cacchio, gli ho detto, e questo ci fa faccia pagare 10.000 lire in più la bombola degli altri. Sempre stato così. Non era che era migliore del duio, Lugano, finché mi dice uno ti dà il gas, è migliore. Sono tutti prezzi le bombole, non è che ci ha mangiato. Perché lui poi ultimamente non ripigliava più dalla ditta. A chi sono davvero bruciatore, mi ha avuto problemi con le aziende, appunto, e quindi non gli davano più bombola, li prendeva da altri rivenditori. Hanno capito, io ti racconterò, dai. Lasciamo perdere, dai, non cerchiamo le persone che non si possono dire qua certe cose. Io già ne so di cose, dopo tanti anni. Tutti conosco me, che c'è gatti e gatti. Lo so, allora, come dice un amico mio, chi sa tutti i giornali, il barbiere, secondo il postino e terzo quelli che portavano le bombe, il gunno ce n'ha tutti. Stai a giudito, non te li conosco. E Babbo Duglio è ancora più di te. E lui adesso un po', io sono quello che va in giro, quindi li conosco tutti quanti. E già ce n'ha menta, Edo. Ma da quanti anni sta lavorando tuo padre? Sempre lo stesso lavoro faceva? No. Io la Giuseppe conosci dove le bombole, da quando eravate in Armando Diaz. Prima di essere lì lui lavorava da coso, a studio lavorava, da Alberto. Da chi? Rockhaus. Faceva anche di lì faceva il service, sì, già mi ricordo anche di quello lì. A te che cambia parecchio, Roberto. Ti sento un po' maluccio con questo, tanto tra poco sto chiudendo tanto. A te che cambia parecchio. Eia, chi è la entrare sul 10? L'amico sei mezzo al QRM e non riesco a copiarti. Eccolo qua. Cavale che sei cobero tu. Va bene. C'hai sempre un po' di eco. Ecco, ci sbagliato lo dato. Ehi, alza un po' la radio, se fai un po' più basso di prima. Oh, vabbè, com'è adesso? Adesso è più chiara, però un po' più bassa, alza appena. E al massimo è robè. No, questo è tarato così. Però la radio è chiara. Quindi conosci anche Gianni, come si chiama, Bugliosi? Li conosco. Tutti li conosciamo. Oh, qualcosa, come si chiama, faceva il service. Sì, li conosciamo tutti, Roberto. Forse non conosce più Babbo, quello lì, che io. Ma già li conosco tutti, bulloni. Ehi, dai, oh, adesso ti devo lasciare però, dai, devo fare cosa, ci sentiamo magari domani se coincide, ti auguro un buon proseguo, poi se c'è qualcuno un buon proseguo di questo, io devo interrompere, ciao ciao, alle prossime. Ciao Robert, ci sentiamo. Dai, cos'è, maniaca zoppa. Attenzione, mangia cazzoppa! Qui c'è fianco di culo! Hola! Copiate Antonio Bombolo dalla città di Sassari K. E chi è? Avanti, chi è? Buonasera, Scucci Italia, Scucci Italia delante. Chi c'è? Poco fa stavo parlando con Roberto, stavo parlando. Magna di cazzoffi, due mudo. Oia, esci gamba scemo in occhi, vai. Attacchi tu luci, ubirai. No, però non sono qua. tipo 150 euro. Ma da Ciamballe? Da, tanto, vabbè, ancora non mi serve. Poi quando mi chiede, proprio mi chiede il dentista, andando a cambiare le portate a lui. Ma serve, ma per un che abbiamo un piano, come è tutto un coipo? No, ecco, tutto un coipo. Ecco. Sì, un po' di magnacciumine, beh. Adesso, ma non ti rendi molto conto. conto che più sto andando più no. È tutto a come vuoi me, capito? Il lavoro è un incasinato forte, niente pigliata a gusto, senza assicurazione, niente guarda veramente, ce n'è un libro da scrivere. E chi dovrebbe controllare se se ne sta grattando? Qui niente di naso e grattando i giri. Ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo. Tu pensa che se quelli, un esempio, quei barboni che trovano le panchine, non sono peggio ancora, poveracci, quelli hanno meno fortuna di noi. Molti hanno, molti l'hanno scelto, molti sono stati sfortunati, purtroppo. Ci sono tanti casi, bisogna vedere cosa Dio non fa, ma no. Il crociano è un mondo tutto a parte, andiamo a vedere cosa è successo. Lo so, poi ce ne sono di queste persone che ti bastavano, poi sono rovinati chi con l'alcol, chi con i giochi, l'azzardo, chi con la droga, tanti ce ne sono altri, tanti. E il gioco d'azzardo purtroppo ti rovina, Cazzolini ti ha venduto casa, macchina, non so, pure la moglie. Beh, hanno perso l'amore pure, anche da mogliere, da portaraianna. No, non funziona così, no. Io avendo soldi ho già vinto, che cavolo ci vado a giocare, ho già vinto. Sto bene, cosa ci vado a fare? Faccio un attimo. Sì, aspetta. Ciao, ti dico, prendiamoci la salute. Lo so. Purtroppo è così. Che non c'è uno qua, miliardi. Ma se non c'è salute, ciao. Io vorrei avere la salute e miliardi. Ma non è che io sono ubriaco egoista, Io mi insisti su un'attività per far lavorare la gente. Vabbè. Ma se qui più meglio così, Angelo. Già lo so, avendo soldi avrei fatto, li avrei investiti per fare un qualcosa che mi è sempre piaciuto. Vabbè. Alla fine. I soldi già servono, come? Però. Sono quanti duroli, mica, chi ce li ha se li tiene? Già lo so. Ma pure io me li avrei tenuti, però. Avrei fatto delle cose belle, io ho in testa di fare cose belle. Eppure io, tu. Mi sei comprato una macchina carina, una casa per i fatti miei, insomma, tutte queste cose, vabbè. Troppo, io sì. E gai, ma comunque, ti va bene così, dai. Avrei fatto anche una bella... Io ci ho sempre avuto in mente la cosa, come si dice, mi sono sempre piaciute i concerti, le cose, a me, avendo soldi, provarsi che mi avrei fatto un bel service grosso, a livello di cantare anche Vasco Rossi, di chi si cantasse così. Diciamo sui strumenti da musicali. Sulla roba, sul palco, sulle casse, tutta la roba a me mi sembra. C'è anche lì, poi avrei investito, ma avrei aperto anche una bella discoteca, locali, roba così. Ma ha fatto bene, avere un bel nome, roba di lusso. Certo. E lì ce ne sono soldi, che ha un service di quelli seri, me ne so un pacco di anch'io. Ma io penso si fa un po' di serata, quella se li recupera. Allora, quella finita con un service ci voglio intorno ai. Ma stavo dicendo, se non mi ricordo chi, anche 3.000 euro ti chiedono. 3.000, 4.000, dipende. Piccolo, sì, sì. E questi che fanno qua a Sassari, là, diciamo? Poi uno grande, grande, grande ti domanda un po' qui di là. Ah, tu pensa, se... insomma, un Vasco Rossi si fa... si chiama un service, non lo sai, uno di quelli seri, seri, un pacco di quelli giganteschi, belli... poi tutta la gente che ci va, quanti soldi guadagna, voglia pagare il sito, e praticamente se lo paga da, dagli spettatori. È una giuria di spettacoli che avrei voluto aprire, perché a me piacciono molto. E la riga di popolo che si va a Sassi, e tu non lo fai di più. Vai, buon carro durati, ringa, che lungo. Allora, io vendo, cioè, un bel po' di soldi, avrei aperto una fabbrica. Di preservativi. Sono qui più che grossolati. No, la fabbrica di mangaglio is in plastica. Allora, la verità è, se apri una fabbrica di preservativi non fai male, perché alla fine li consumiamo tutti i giorni. Forse una fabbrica di preservativi, di mangaglio in plastica, ma quelle gonfiabili. No, io ho sempre l'idea di fare l'agenzia di spettacoli. In più volevo aprirmi un bel locale, cavolo, da mangiare veramente. In più la discoteca, che si guadagna un sacco di soldi. Lì entrano soldi un bel, più è bella e più di là entrano, più ci sono artisti grossi tipo Gigi D'Agostino, e più entra quella gente, più ha il nome e più soldi entrano, ma soldi per me. Già lo so, tu. Già lo so. Ah, a proposito, mi sono dimenticato. Lasci che metto la sveglia, così mi ricordo che il cane deve prendere la tipa la città di domani. Sì, è proprio quella roba che va forte qua. Cioè, è più di là entrare, entro un bel di là entrare. Cioè, fare soldi sui soldi. A miei dipendenti l'aveva pagato per puro, non si sarebbe dovuti lamentare di nulla. Non sai cosa vuol dire? Niente. Ti pago e basta. Beh, certo. Ma senta, ho messo un video, l'hai visto il video che ho messo nella mia storia? Guarda quanti soldi hanno tu. Magari. L'hai visto il video? No, è su Facebook. E nella mia storia, guarda quanti soldi. Vai. Biglietti da 50 e biglietti da 500. Che c'è, vedi? Ah, sì, no, aspetta, no, aspetta, lo mando, no, non è nella mia storia, aspetta. Ma Marina l'ho mandata, allora passa, dovrebbe essere questo, vediamo. Aspetta. Non è questo, vediamo. Eccolo qua, forse è questo. Che è colombiano. Ah, non avevo io, mamma. E lì c'è la massa da Zequizentuere, che mi ho visto lì ci sono almeno 500.000 euro. Una casa ho visto. E una. Oh, casa vero, mi con piscina, con tutto. E vabbè, secondo te quanto la fa non ti battono neanche quelli. Ma me l'ha passata pure una casa tranquilla a me. Il resto per campare, ma avrei fatto qualcosa conto mio per campare. Aspettando. A dividere lui. Cazzo, ma i soldi sono quelli, minchia. Cos'è? C'è lo c'ha dollaro. E allora? Magari. Ti ha pagato? Come te cosa aveva pigliato un ignare di cucchino qua passato? Ehi, proprio un macchino Vincenzi, guarda. Ehi, l'aveva posto un mattese. Ah, tu, io ho visto da fare altro, no, da fare anch'io qua. Quello è l'ultimo che mi ha premesso. Ehi, ehi, ehi, dai. Ehi, va bene. Ma lo sarei messo nella mia villa, certo è una cosa fatta bene, l'apparecchio me l'avevo rimesso lo stesso, ma avevo avuto un mare apparecchi di un ieri di genere. Lo so, poi mi hanno un elicottero privato. Bello, ci a me non mutate, ma se sa bene a me mi attassai. Hanno fatto un video, no, via Sorso, no, non via Sorso, lì vicino al ponte, che sono poi di cinghiali, e su Maria. No, Viera, e chi vive via Pascoli, mi pare. Non via Pascoli, no, no, che ero mancato. Senti. Giro vagano, scendono dalle campagne. Giro vagheggiano. Sì, chi è che vuole entrare? Boh, ne ha dato, si intendeva che cosa. Chi si buchi, chi si cura la carabina, ridiri a capo da poter fare sughetto. A sughetto buoni sono. Che cosa, non capito? Il cinghiale. Ah, che riesce a farlo fare? Burax ha due ammarinati tanta la notte con un vino, quello di Pichino. Poi dopo lo puoi cucinare. Cioè, non so come ti bisogna fare. E allora ne serve. Tu ha due baracchino, se vai a chiare il geco. Cos'è tu? E tu ha due baracchino, se. E come vai? Lo so, che è la prima volta che mi succede, ecco qua, pure lui sta invecchiando. Chi è questo, quello che ho sistemato tu il microfono? Quello lì, esce bene. Ma mi si aspetta un messiero, non ho capito cosa. Esce bene, che microfono è quello, M300? Ah, cosa, lo so io, è quello che tu hai visto. Ah, di M1000. Cosa? Niente che... Ah, c'è bene. Quello che tu hai visto. Il tuo originale. Sì, sì, sì. E questo ce l'ho da anni. Va grande. Guarda, lei col suo, il tuo pulsante, già hai visto come ti ha fatto? Sì, hai... C'è benissimo. C'è va bene, sì. C'è una ricezione che è una cosa paurosa. Ma quello cos'è a lei? No, quello che c'ha lo smitter. Ah, è lì, sì, sì, sì, mi ricordo. Quanto arriva con lo smitter? Qua c'è 9.30. Allora, già è abbastanza... Non dico che di quella è al 100%, ma andavano bene. Già va bene. Che se gli mai ad un bel gli mangiato? Sento scoppiare. Lo so. Mamma mia. E anche noi abbiamo mangiato la pasta, mamma. Chi? Abbiamo mangiato la pasta che ci ha portato a mezzogiorno. Ah, capito. Cioè è buona. A voglia. Chiappa. Chi ci va i finali mi subisci. Più ti caghi più ti bici. È vero. Tu usa. E andiamo e andiamo. Cash. Vabbè, per l'antenna non ti hai detto niente tanto. Che l'antenna? La televisione. Boh. Che hanno andato un abbaito cosa, ma sta cuiccia già andava in una testa. Vabbè, cosa va a entrare? anche se cazzo non va l'antenna, buh. Ma è che non vedrai, è mezzo barra indotta dei passi. Vabbè, quello lo deve vedere lui, il padrone di casa, mica ci risponde tutto. Chiama sul tecnico, è fatta la sistema. Si diceva un amico tecnico, buh. Che la parla. E qualche giorno salgo su a vedere. Mi è da subito, te ne freghi di Sara, è già per ragione, devo aspettare che asciughi su per salire. Ma ci sono le tempo. Eia. Beh, certo devo aspettare che asciughi, sì. Quindi lunedì, quindi siamo per le giornate, ma un fine settimana, ma un sabato, se c'è caldo, ha voglia, puoi salire. Ma vedi cosa ammara sotto. Andiamo, andiamo, che... Ho inviato la antenna dello baracchino, ho inviato un capo della stella. Poi ci piazza anche la Venom, Venom, non ti capo che diciamo. E quella lasciamo stare in parcheggio, non funziona chissà. Allora, oggi è... Allora, mercoledì sono andato, allora, mercoledì... Giovedì oggi è. Eia, oggi non io mi sono dolore. Mercoledì, la prossima settimana, mi cucina di una zionga. E lo Marconi, ma qui ce ne sono un bel po', ne ha fatto un bel po', ma se ne ha fatto di meno, ce n'è, e mi sa che vi dopo a Roma di Marina, si rimane in campagna, ci siamo in campagna, le faccio preparare al ripieno. E è buono già. Per adesso l'antenna comunque rimane questa perché funziona bene, cosa la compare già fa? Vabbè, però c'è quella. Va bene anche quella lì. Si sentono dappertutto. Comunque con la boomerang sono arrivata anche in continente, pensa giù. Santiago no. Che anni bomba, ya. Se piatto da bere bomba. Ma non bene, di lusso. La boomerang si è piazzata bene come con criterio, arriva per tutto, non ha niente a che invidiare con le altre antenne. E ha voglia, cazzo, vanno bene, bene, bene. Cappa, un ghita che ci manca il roccio, vabbè, tipo quella bazooka, ma via tutto il costo, lì non si va nulla, ma non andava proprio, zero. Non sentivo nessuno, poi l'avevo aperta la 30, metto pratica 3. Sì, quella era vecchia un bel... Era di un po' marmogliato quella. Ultima, ultima. La, quella lì non andava tanto bene. E ma chi c'è sì? E chi c'è già andata? Ha voglia. Un po' che vatte, qui si sentono spesso. E a chi ama? Pochi watt. Va bene. Ma macchina va da Typhoon, 10, 12, cosa se lo ricordo. Non si è mai lamentato nessuno, tipo why non è fai, vero? Ma non si è mai lamentato nessuno. Mi torna, mamma. E poi per la posizione che è. Beh, certo. Secondo me va che cosa c'è apparecchio? Ma le morruidi. Non mi gocco succede, ma se che tocca che cosa? Allora a me, giù da Maria, mi succedeva questo. Praticamente mi si spegneva il baracchino. Toccavo il fusibile alla bollente, non capisco perché. Eppure questo è rispettoso un po', Allora toccavo appena appena il fusibile, ce l'ho rottavo dove sono lì, che c'ho giù e a vitare, no? Lo mollavo appena appena e riaccendeva il baracchino. Buroghici, no, è freddo. No, capisco quel perché. Ma mi sono bucato, non mi se mi stai assodendo dove l'apparecchio. Non è il sonno anzio ancora. Eppure voglio provare l'altro, voglio provare. Se secondo me si è entrato in dillo, esci a vedere. Hola. Alternata c'è. Alternata c'è. capisco perché stia facendo così. Che malaccio è quello? È l'Alfa Yeti Zeus. L'ha pigliata a fare, c'è un chissà alternata. Hola. Non ho idea. Non ho mai compreso l'uba cosa. È un bel fastidiosa, eh. Sì, abbastanza. Hola, hola. Adesso ti pare un piccione. Sì, hai provato a attaccare l'antenna diretta. Ah, non le fendi, eh. Hai provato a attaccare l'antenna diretta, non ci sa mai. Ma adesso non le sta facendo, eh. Lo so. Ma lo aspetto. Hola, hola. Vado già. Che non lo fate più, vero? Sì, e dove sta toccato? Nello PL. Ah, no, proprio è rimasto. Ma lo uso per il chiusuro però, Poi un cavo di massa, un pezzo di cavo di corrente, se lo attacchi al PL, l'altro glielo attacchi, se c'è qualcosa di massa, di ferro lì, tipo, adesso, si fuori. Stavo dicendo, di segnale com'è questo apparecchio? Basso, Più o meno sempre lo stesso. Vabbè, 4 watt sono, Qui sono benzina, tu. Andrà per dare che lo tolgo, va. Luca! Eia! Bravo, come senti? Bene, bene. Ma sai cos'è, Ghiccio? Portate. Eia! Ma lascia bene anche questo. Cappa. Sono con l'antenna. E attira. Sono con l'antenna e con le cose accendi sigarilla che ho fatto io. Dice che c'è una modulazione allucinante. E va bene. Cappa. E qualche volta lo utilizzo. Adesso domani, vabbè domani non ci sono qua. Ma lo metto in moto il tipo, quello modificato. Ah, è andato a fare l'attidozzi? No, l'attidozzi, no, no. Qua. Ah, ho capito. A fare un po' di bordello. E stando. Cappa. Dimmi. Faccio un po' di passaggi e poi chiudo. Cazzo, mi sono guidato un meglio, non mangiava ciuffi. Ehi, a cappa, là. Non mi sento attaccarlo all'alimentatore. Sì, bisogna prenderlo via tanto in moto. Oh, già lo tengo sempre con le batterie. Vabbè. Ha già bisogno un po' di scosse elettriche. Ne ha bisogno sì. Questo c'ha il processore, c'ha una bomba, Ma te l'hai comprato? No, non me l'ho preso, me l'ho regalato. Lo tengo bene, cavolo, lo tengo sempre io. Mi piace, adesso sono con l'antenna grande. C'ho il mobile, gli ho fatto l'accendisigari, quando lo devo drattare. Adesso è da parecchio che non lo stavo facendo andare. Quando lo devo drattare l'attacco e via, col suo cavo originale. Che c'è tutto un cavo particolare. Cappa. Dai Lu, io ti saluto, dai, che adesso mi ti gocco. Ti auguro una buona notte. E Anto, mi sono avuto un mani di brue. Ciao Anto, buonanotte, anche a te, domani, ciao. Ciao, buonanotte, buonanotte a tutti gli ascoltoni.